Italia in controluce. Buongiorno, è la seconda edizione di Italia in controluce, la cronaca, il racconto, la narrazione sulle storie italiane, due edizioni quotidiane. Buongiorno da Daniele Biacchesi. Via Tasso a Roma è stato un luogo di tortura. I nazisti e i repubblichini di Salò vi portavano gli oppositori arrestati nelle loro abitazioni e nelle strade. Li massacravano di botte, gli infliggevano punizioni corporali di ogni tipo, sperimentando anche le tecniche più sadiche. Oggi, 66 anni dopo quegli orrori, Via Tasso a Roma è un luogo di memoria, un museo della deportazione, a futura memoria. Sembra paradossale, in tutto il mondo posti come questi vanno difesi dall'incuria e dal revisionismo, e invece in Italia il museo di Via Tasso rischia di chiudere. Cristina Carpinelli. Ma lo sai che quei 32-33 che vennero ammazzati dai partigiani, là, quei 32-33 tedeschi che morirono a Via Rasella, mica erano tedeschi, erano altoatesini. Uno, dimmi un po', che fanno i partigiani romani, sti comunisti, c'erano contro l'Alto Adige che ammazzano gli altoatesini? Perché miseria, questi qua, era il Polizei Regiment Bozen che fu attaccato dai partigiani, erano Bozen, erano altoatesini. Ma non erano mica altoatesini quelli che fanno lo Specker, formaggio sulle Alpi. Dico, questi erano altoatesini nazisti, dico, ci sarà una differenza, no? Poi peraltro i partigiani romani mica ce l'avevano contro la Germania come espressione geografica. Avrebbero mica sparato a uno qualsiasi, che basta che era tedesco, a un idraulico di Berlino, che ne so io. Ah, c'è una differenza, no, tra uno che fa lo Specker sulle Alpi, un pilota di Formula 1 e un nazista. Eppure ancora oggi tanta gente lo dice. Quelli lì erano altoatesini, i partigiani ammazzarono degli altoatesini che non c'entravano niente. E poi ti raccontano anche che dopo che fu fatta questa azione partigiana di Via Rasella dai partigiani a Roma, dice che dopo i tedeschi, quando contarono i loro morti, 32, 33 quanti erano, appiccicarono dei bandi, dei manifesti per tutta Roma, sui quali manifesti si era scritto che se i partigiani colpevoli di quell'azione si fossero presentati, loro tedeschi non avrebbero ammazzato nessuno. Ma dice, però i partigiani mica si presentarono. Ma dico io, ma quali manifesti? Quali bandi? I tedeschi non dissero niente, non stamparono manifesti, non fecero bandi. Ma mica perché lo dico io, o i partigiani o i comunisti cattivi, ma perché lo dicono loro stessi, lo dicono i tedeschi al processo. Nel novembre del 1946, domanda del giudice a Kesselring, dice, ma voi potevate dire se i partigiani colpevoli di questa azione di Via Rasella si presenteranno, noi libereremo le persone che abbiamo arrestato? Kesselring risponde, sì, adesso a distanza di 2 anni credo che l'idea sarebbe stata buona. Ma non lo faceste, gli dice il giudice. No, risponde Kesselring, non lo feci. E poi, ma per quale motivo i tedeschi dovevano andare a raccontare ai romani che stavano per ammazzare più di 300 persone, ma sarebbe successo un macello per Roma, no? Vi sembra poco che un uomo, un artista come Ascanio Celestini possa recuperare materiale storico, mettere in piedi uno spettacolo sulla storia? E chi credete che lavori al mantenimento di documenti, diari, lettere? Professori di storia, ricercatori, uomini e donne, come quelli che lavorano al Museo Storico della Liberazione di Roma di Via Tasso. Quel luogo rischia letteralmente la chiusura. Questa notizia, circolata nei giorni scorsi, è rimbalzata su alcuni giornali e su internet. Il risultato è stato sorprendente. Ora i soldi, ben pochi, sono arrivati, come ci racconta il direttore del museo, il professor Antonio Parisella. La situazione del museo è piuttosto semplice. Il museo riceveva da diversi anni un contributo di 50.000 euro. I tagli previsti dalla manovra finanziaria avevano fatto pensare a un taglio del 15%. In realtà fino a qualche giorno fa non c'era il taglio, ma non c'era, c'era stato corrisposto soltanto un terzo della cifra per tutto l'anno. Dopo che questa cosa è emersa nei media, dal Ministero ci hanno rassicurato che arriverà il resto, ma arriverà con il taglio che avevano detto che non sarebbe stato fatto. Quindi riceveremo circa 27.000 euro entro qualche giorno. Questo ci rassicura temporaneamente. Questi ci permettono di pagare i debiti fatti quest'anno, perché il contributo per il 2010 arriva nel mese di novembre e noi nel frattempo siamo dovuti andare avanti lo stesso. Quindi noi arriveremo a poter concludere l'esercizio 2010 senza andare in rosso, e poi dovranno dirci quanto ci daranno l'anno prossimo. E questo museo è importante che resti in vita per una ragione così ideale e di rapporto con coloro che in quegli stessi locali sono stati torturati e avviati al patibolo, perché è realizzato in alcuni appartamenti di quell'edificio che fu la sede del comando della polizia di sicurezza, il cui capo era Kappler e che aveva come suoi vice capi Schutz e Prib, che nomi tristemente famosi e noti anche al grande pubblico per le vicende che li hanno riguardati. È un luogo della memoria oltre che un museo. Il museo è un allestimento piuttosto semplice, fatto nel 1955, che forse avrebbe bisogno di essere rivisto, ma i muri con le scritte dei detenuti, con le finestre murate, con le bocche di lupo delle prese d'aria, sono delle cose che danno un senso dell'oppressione nazista, e è l'unico carcere nazista mantenuto come era in Europa, dove vengono anche giovani compagnie di attori a fare le loro opere relative a questi temi, cioè, vengono i ragazzi delle scuole medie e delle superiori, e comunque è un luogo aperto anche quando formalmente è chiuso, nel senso che se qualcuno chiede di venire con un gruppo fuori orario, noi cerchiamo di accontentarli. Vengono con i pullman da varie parti d'Italia, anche dall'estero, e le scuole tedesche di Roma, eccetera. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Athos. Dalle belle città da te nemico, fuggimmo di su per le aride montagne. Italia in controluce. Ha deciso di raccontare il Novecento, lui, proprio lui, Pippo Baudo, uno delle icone della televisione popolare. Daniela Binello lo ha intervistato per Italia in controluce. Pippo Baudo ieri sera si è presentato davanti agli operai della Italsider di Genova che manifestavano davanti al Teatro Ariston di Sanremo. Ha cercato un microfono, ma poi la sua voce è stata sopraffatta dalle grida degli operai che chiedevano la sospensione del festival. Noi sappiamo di creare un po' di disturbo, però crediamo che tutti quanti ci capiate. Siamo in una situazione drammatica, direi. C'è in gioco il nostro posto di lavoro. Siamo convinti che tutti quanti capirete il perché siamo arrivati fino qua, il perché vi abbiamo disturbato. Vi chiediamo ancora scusa e crediamo che veramente tutti quanti ci diate la vostra solidarietà. La nostra lotta è la lotta del paese. Grazie, grazie veramente. Io vi ringrazio voi. Era il 1984. Pippo Baudo invitò poi a salire sul palco dell'Ariston una delegazione di operai dell'Italsider. E questo è uno dei momenti drammatici legati a un secolo di personaggi italiani del mondo dello spettacolo che Baudo racconta nel programma di Rai 3 Novecento. E chi poteva se non lui, che di quei 100 anni ne ha spesi più della metà di fronte alle telecamere? A Baudo condurre Novecento piace. Moltissimo, perché ripercorro la storia di questo paese e attraverso i personaggi capiamo quanto sia grande questo paese, quanti personaggi ha dato, dei quali ovviamente spesso la memoria si dimentica, e quindi diciamo un'attività di ripasso che è molto utile. C'è un signore scritto che sta lì affacciato alla balaustra, ti prego di non dare le scandescenze, torna indietro per piacere, ecco. Fammi la cortesia, qual è la ragione di questa tua quest'azione? Qual è il motivo? Sono disperato, Pippo. Ma la tua disperazione, così non succede niente. Pippo, ti voglio bene, perché sono io. Io ti prego e ti aiuterò. Te lo prometto. Mi fai restare? Te lo prometto, vieni qui. Mi fai restare, mi fai? Non ti faccio restare per niente, tu vieni con me. Stai tranquillo. Mi fido della tua parola. La mia parola d'onore. Questo era un altro tassello delle storie degli italiani che si intrecciano con il mondo dello spettacolo. Nell'edizione di Sanremo del 95, Pino Pagano, un bolognese disoccupato, scavalcò la balaustra della galleria del Teatro Ariston minacciando di suicidarsi. Sanremo però, con le sue polemiche, continuerà anche oltre il Novecento. Ma quella è consuetudine, è una storia che si ripete. Non ci sarebbe Sanremo se non ci fossero le polemiche, quindi ce ne saranno altre, saranno superate, il festival si fa ormai l'istituzione più vecchia che abbiamo nel nostro paese, oltre alla Repubblica. Italia in controluce, per comunicare con noi, il mio blog radio24.it, Radio 24 Italia in controluce su Facebook, in controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.